changed my mind about wasting my time spending money and drinking wine. Do right by your woman, she'll do right by you. Do right by your woman, she'll do right by you. Well, you always love the loser, but it's different from now. I've changed my plans, gonna be a better man, tell you so you'll understand. Do right by your woman, she'll do right by you. Do right by your woman, she'll do right by you. Bentornati da Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, che questa sera sono i Violet Gibson. E che rock sia allora sulle frequenze di RCS, 98.6 per Bassa Veronese e zone della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 zona lago. E ricordiamo anche che Radio RCS la si può ascoltare anche attraverso lo streaming del sito internet www.radiorcs.it. Continuiamo a parlare di hard rock, passando al genere AOR dei fine 70, iniziato con gli inglesi Bad Company, che dal disco Run With The Pack del 1977 ci hanno fatto sentire la ballata Do Right By Your Woman. Band nata dalle ceneri dei Free, che ha saputo conquistare i palchi di mezzo mondo in virtù di un sound diretto e grazie anche alla grande presenza scenica di Paul Rogers. Che ne dite? Molto bella, devo dire molto bella, un po' meno muscolare delle altre canzoni di, certo, prima, però toccante, devo dire. Tra l'altro Paul Rogers lo conosciamo perché ha continuato nel tempo, l'abbiamo visto anche recentemente, è vero o no? Con i Queen. Con i Queen, esatto. In gran forma anche ragazzi, devo dire. American Circus è il titolo del vostro disco, qual è il significato di questa breve frase? Guarda, American Circus è il grande tendone mediatico nel quale siamo un po' tutti dentro. Certo. A me piace citare sempre una delle ispirazioni per noi in questo album, che è l'opera Omnia di Michael Moore, che ha avuto modo di vedere uno, o spero più, dei suoi documentari. Avrà notato un punto di vista su cose che magari tutti più o meno conosciamo, alternativo, potrebbe anche essere illuminante per qualcuno. Per me lo è stato. E vedere le cose da una prospettiva diversa è bello e anche ispirante per quello che può essere un concetto musicale. Per cui l'American Circus, veniteci a fare un giro. Nel 1978 esce Double Vision, secondo disco dei Foreigner. Da quel lavoro ci ascoltiamo il classico Hot Blooded. I'm hot. forti di 70 milioni di dischi venduti, i Foreigner hanno saputo conquistare i fans grazie al loro sound d'impatto e alla grande bravura del gruppo. Che ne pensate? È interessante. Ti dico, i primi pezzi, forse più si va indietro nel tempo, più si torna alla radice proprio, sono quelli che mi hanno colpito di più adesso. Forse perché non sono proprio un amante spassionato dell'AOR. Il ritornello mi fa un po' ascensore, non so come dire. Però se hanno venduto quei dischi lì, buon per loro, insomma. Però io devo dire che invece per quanto riguarda me, che sono il cantante, sai com'è, insomma, certo. Le voci AOR sono sempre affascinanti. Io, a me piacciono molto. E fra l'altro io cerco sempre anche nella nostra intimità di gruppo e di creazione di mettere sempre dentro questi ritornelli un po' a vocalità alte. Poi dopo mi frenano, però insomma a me piacciono. Bene, bene. Vostri ascolti musicali quali sono e quanto influenzano la composizione delle canzoni? Vabbè, insomma, diciamo che secondo me chiunque faccia musica è perché prima l'ha ascoltata. C'è chi diceva dipende, che... non sempre. C'è chi diceva che i migliori scrittori la prima cosa che fanno è quella di leggere. Comunque, in generale, uno non so quanto sia anche cosciente di quanto i propri ascolti influenzino la propria creatività. Io sarò noioso e sto invecchiando perché sembro mio padre, ma penso che tutto nasca dai Beatles e tutto ritorni ai Beatles. Per cui, guarda, c'ho già 3 anni in più dopo questa frase, però è così. Poi ovvio che nel tempo ogni decade ha dato un qualcosina, diciamo. Certo. E noi nella nostra decade attuale, volendo, ci si può sentire un sacco di cose diverse, insomma. Sì, diciamo che abbiamo pescato un po', abbiamo fatto dai vari decenni, abbiamo pescato un po' dai 70, un po' dagli 80, anche fine 60 direi, 68, 69, abbiamo messo un po' tutte queste influenze. Poi chiaramente, essendo personaggi che hanno cominciato a suonare verso la fine degli anni 80, inizi 90, abbiamo inserito tutte anche le nostre nuove sonorità, che possono essere, che ne so, Guns N' Roses, piuttosto che, non so. Mettiamoci dentro un Faith No More che ci sta sempre bene. Chiudiamo allora la seconda parte con gli April Wine, storica formazione canadese della lunga discografia. Li ascoltiamo dal disco The Nature of the Beast del 1981 con Sign of the Gypsy Queen. Nella terza e quarta parte ascolteremo 6 brani del disco dei Violet Gibson dal titolo American Circus. Stay tuned! Back is good and low. We'll resist till we reach the dawn.